GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Medici di famiglia, più pazienti per dottore a Trieste e Gorizia, oltre 1600, giornata di fuoco nei pronto soccorso. Muore a Capoverde il biologo marino udinese Tiziano Scovacricchi, aveva 68 anni e si era trasferito sull'isola. Sauris, premiata dalle Nazioni Unite, destinazione rurale per un turismo che diventa motore di sviluppo. Festività tra arte e cultura, musei aperti e molti visitatori alle mostre di maggior richiamo a Trieste. Torna il rito del cinema a Santo Stefano, tradizione che era stata quasi spazzata via dalle restrizioni anti-Covid. Amaretto di tomba con Sofia, dopo le cure per una malattia rara, 6 mesi fa l'intervento grazie a una raccolta fondi. Sempre più vicini, uno sciacallo dorato travolto alle porte di Udine, parla all'esperto, numero cresciuto rapidamente. Pallacanestro Trieste, 74-60 su Trento, successo fondamentale per la fiducia, tutto deciso nell'ultima frazione. Volley, la cigliata al Massons vince per 3-1 il derby della 2 femminile di pallavolo, battendo Itas Martignacco. L'Associazione Internazionale dell'Operetta festeggia al Rossetti di Trieste i suoi 30 anni di attività. 7:19 minuti di martedì 27 dicembre. Buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo. Il cielo è nuvoloso, coperto su pianura e costa, da poco nuvolosa variabile sui monti. Le temperature registrate alle 6 a Trieste 10,5 gradi, a Udine 9 gradi, a Gorizia 8,5 gradi, a Pordenone 6,5 gradi, a Tolmezzo 5 gradi, a Tarvisio 1,5 gradi, a Forni di Sopra e sul Piancavallo 0, a Sappada meno 3 gradi, sul Monte Lussari 1 grado, sullo Zoncolan 2, sulla costa Lignano 9 gradi, 10 a grado. Le previsioni per oggi: sui monti e zone occidentali cielo in genere poco nuvoloso, sulle altre zone variabile con probabile maggiore nuvolosità verso il Carso e Trieste. Del primo mattino tempo umido e sarà possibile qualche nebbia in pianura e nelle valli. Verso sera sulla costa e ad est inizierà a soffiare bora moderata che renderà l'aria più secca al suolo. Temperature molto miti per la stagione. In apertura di questa edizione del giornale radio, i temi della sanità: mancano i medici di base a Trieste e nell'Isontino, aumenta la quota pro capite degli assistiti ed è di nuovo emergenza nei pronto soccorso della regione. La giornata di Santo Stefano non dà tregua all'emergenza dei pronto soccorso. Anzi, a Cattinara a metà giornata erano 63 le persone prese in carico, alle quali vanno aggiunte una quindicina del maggiore. Da fonti interne sappiamo che a Cattinara le corsie del pronto soccorso diventano corsie di ricovero per i pazienti in attesa di passare ai reparti di competenza. Al triage di Monfalcone i pazienti per Santo Stefano erano 37, 26 a Gorizia. Numeri che oscillano, rimanendo tuttavia elevati, e comportano quindi attese di diverse ore per i codici meno urgenti, verdi, azzurri. Nelle giornate festive, si sa, manca il filtro del medico di base, c'è comunque quello di guardia, ma stando al carico di lavoro nei pronto soccorso, di cui continuiamo a riferire, non è sufficiente. La SUGI, poche ore prima di Natale, ha inviato ai medici di base una PEC in cui comunicava che si alza il tetto dei 1575 assistiti per medico. I medici di base di Trieste avranno ulteriori 41 assistiti, i loro colleghi isontini 50 e quelli del Monfalconese addirittura 175 in più. Una decisione che non risolve il problema strutturale del nostro sistema sanitario, sostengono i medici del sindacato autonomo SNAMI. Creerà ulteriori disservizi nella presa in carico, nella possibilità di vedere le persone e di risolvere i loro problemi. Il nodo, oltre che nell'oggettiva carenza di medici di base, sta, secondo lo SNAMI, nei lunghi tempi di attesa per la diagnostica e le visite specialistiche. Lo stesso paziente, la cui impegnativa diagnostica è rimasta in evaso o in attesa, continuerà a rivolgersi al medico di base per curare gli stessi sintomi, nella speranza che non si acutizzino. In caso di acuzie, il passaggio al pronto soccorso è pressoché inevitabile. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora la morte a Capoverde dell'udinese Tiziano Scovacricchi, figlio dell'ex sottosegretario alla difesa Martino Scovacricchi. Avrebbe compiuto 69 anni a gennaio, è stato trovato senza vita il giorno di Natale su una spiaggia dove era andato a fare il bagno. Non ci sarà autopsia. Biologo marino in pensione, si era trasferito a Capoverde i primi mesi di quest'anno. Il servizio. Cordoglio in Friuli e non solo per l'improvvisa scomparsa il giorno di Natale a Capoverde dell'udinese Tiziano Scova Cricchi, 68 anni, figlio dell'ex sottosegretario alla difesa Martino Scova Cricchi. Verso mezzogiorno del 25 dicembre era andato a fare il bagno a Praia Grande, una spiaggia sulla costa nord-orientale dell'isola di São Vicente. L'ho trovato una coppia di turisti un paio di ore dopo, inutili i tentativi di rianimarlo. La notizia è stata data la sera del 25 dicembre dalla TV capoverdiana. Tiziano Scova Cricchi, biologo marino, ricercatore del CNR e appassionato subacqueo, viveva a Calau. Si era trasferito da solo a Capoverde i primi mesi di quest'anno, dopo essere andato in pensione. Come ci ha raccontato l'amico, il produttore musicale udinese Alberto Zeppieri, da 5 anni a Capoverde, Scova Cricchi aveva già ottenuto la residenza sull'arcipelago africano. Viveva poco lontano dalla spiaggia dove è stato trovato senza vita. Non sto bene, aveva detto agli amici il giorno prima, devo avere l'influenza. Avrebbe compiuto 69 anni a gennaio. Sposato 3 volte, separato, aveva 4 figli. Con altri friulani aveva in progetto di creare il primo Fogolar Furlan di Capoverde. Era entrato a far parte di un coro e iniziato a collaborare al progetto musicale Capoverde Terra d'Amore di Zeppieri. Qui sono felice, aveva detto. Quando muoio voglio essere sepolto in quest'isola. Era uno spirito libero, così lo ricorda il figlio Andrea, appassionato del mare, della natura e del suo lavoro. Il console onorario italiano a Capoverde, Fausto Fanti, in contatto con i familiari, si sta occupando del caso. Avviate le indagini di rito, ma non ci sarà l'autopsia, ci ha detto ancora il figlio. Il corpo, trovato sulla spiaggia, non presentava segni di violenza. Addosso sono stati trovati il portafoglio con i soldi e le chiavi della macchina. Marinella Chirico, TGR, Friuli Venezia Giulia. Voltiamo pagina, quasi 22.000 accessi e più di 227.000 passaggi ai tornelli per i poli sciistici della regione nei 3 giorni delle festività natalizie, per un totale di 570.000 euro di incasso. Ottimi numeri registrati da Promo Turismo FVG, superata la media dello scorso anno, quando tra la vigilia Natale e Santo Stefano gli sciatori presenti erano stati molti di meno, con 14.200 primi ingressi e circa 164.000 passaggi. Sul podio per presenze il comprensorio di Tarvisio, con oltre 7.100 primi ingressi e 56.000 passaggi, seguito da Ravascletto, Zoncolan e da Piancavallo. Sappada chiude il fine settimana lungo con 1.600 primi ingressi, Forni di Sopra e Sauris sopra 1.200, come Sella Nevea. Al via sulle nevi regionali anche i primi allenamenti delle nazionali, oggi e domani la nazionale croata maschile a Sella Nevea, fino al 29 dicembre la nazionale italiana e slovena maschile di gigante testeranno le piste dello Zoncolan. Restiamo in montagna, ma a Sauris, gioiello delle Alpi Carniche, immerso nella natura e ricco di tradizioni, e ora anche segnalato tra le località turistiche più suggestive al mondo. Anche col cielo coperto, Sauris mantiene tutto il fascino del borgo antico, radici profonde che restituiscono un'autenticità ormai rara anche tra le località della montagna friulana. Qui si è deciso di puntare soprattutto sul turismo esperienziale, che valorizza le tradizioni locali e coinvolge il visitatore nella quotidianità degli abitanti del luogo. Viene proposta la possibilità di partecipare al nostro carnevale anche al di fuori del periodo carnevalesco, preparando i visitatori a interpretare delle autentiche maschere saurane, no? Quindi scoprendo quali sono le caratteristiche del nostro carnevale, come sono fatte le maschere, come ci si veste, quali sono i dolci tipici del carnevale, e alla fine il visitatore acquista il diritto di partecipare alle nostre mascherate. I turisti in queste giornate natalizie non sono ancora tanti, la maggioranza infatti arriverà tra Capodanno e l'Epifania. Cercano questi posti autentici per trascorrere naturalmente una vacanza alternativa alla vacanza di massa, proprio per rimanere, diciamo, in tranquillità. In questi giorni c'è chi è venuto dall'estero per godere di questa pace e del contatto con la natura, polacchi, tedeschi e anche una coppia francese. Nous cherchions par internet, on a trouvé cet endroit. Abbiamo cercato su internet e abbiamo trovato questo posto un po' nascosto che ci è sembrato autentico e tranquillo per passare qualche giorno di vacanza a cavallo di Natale. Abbiamo affittato delle ciaspe e abbiamo fatto delle bellissime passeggiate nel bosco tra Sauris di sotto e Sauris di sopra. Oggi penso che faremo un giro in motoslitta, è qualcosa che non abbiamo mai fatto prima. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel servizio avete sentito le voci di Lucia Protto, responsabile del centro etnografico di Sauris, e di Paola Petris, dell'albergo diffuso di Sauris. Rimanendo in montagna, uno degli eventi più temuti sia dagli appassionati che dai soccorritori, le valanghe. È una corsa contro il tempo, dicono i tecnici del soccorso alpino, ed ogni valanga è diversa dall'altra. Formazione, esercitazione e tecnologia sono importantissimi per dare una risposta immediata. Abbiamo assistito alla ricerca persone e a un intervento in valanga fatto dalla guardia attiva del soccorso alpino di base a Tolmezzo, un elicottero della protezione civile, un tecnico e una unità cinofila sono la prima risposta per la ricerca e l'individuazione delle persone coinvolte, spiega Sergio Buricelli, presidente del soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia. È fondamentale l'intervento tempestivo ed è per questo motivo che da alcuni anni, in collaborazione con la Protezione Civile regionale, noi riusciamo a garantire un servizio di guardia attiva presso l'elibase di Tolmezzo, nella quale si trovano una cinofila e un tecnico del soccorso alpino. È fondamentale essere tempestivi, perché nei primi 15-18 minuti che si ha una possibilità di trovare una persona in vita. Quanto è importante la specializzazione? Direi che è fondamentale, in quanto è uno scenario di intervento estremamente complesso, che richiede tantissima esperienza e soprattutto capacità di affrontare l'emergenza con tempi di risposta e di decisione veramente repentini. Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Festa di Santo Stefano dedicata alla cultura a Trieste, tanta gente a Miramare e anche le mostre di Banksy al Salone degli Incanti e quella sui macchiaioli al Revoltella. Musei aperti per Santo Stefano, un'occasione che in molti hanno colto, complice il tempo uggioso e il bisogno di fare una passeggiata dopo i bagordi natalizi. E chi si è fatto regalare una visita guidata ne ha approfittato subito. Francesca Pitacco, presidente dell'Associazione Guide Turistiche del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo visite guidate, un po' le partenze fisse, quindi visite organizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia che vengono incontro proprio agli individuali che magari non possono, anche da un punto di vista economico, insomma una guida per pochissime persone, magari è qualcosa di oneroso, anche se molte visite sono state regalate sotto l'albero, insomma, per conoscere anche non solo la città ma la regione. Tra le più gettonate c'è quella di Banksy, il grande e misterioso comunicatore, inaugurata un mese fa nel Salone degli Incanti e che resterà fino ad aprile. C'è una rivoluzione in atto, proprio nel pensiero, nel modo di porsi di fronte alle immagini e di fronte ai simboli che queste evocano. E questa è una mostra che specifica questo e che è la continuazione della pop art di Andy Warhol. Piace molto anche la mostra nel vicino Museo Revoltella sui macchiaioli, pittori rivoluzionari di metà dell'Ottocento, e qui incontriamo molti turisti austriaci che non perdono occasione di meravigliarsi di quanto sia bella la mostra e la città. From Salzburg. You know Salzburg? Beautiful. Beautiful like Trieste. Austria. Where from? From Enns. That's a town near Linz. Did you like the museum? Oh, it's great. It's very interesting. Molto bella. Molto. Non sono un appassionato d'arte, però ogni tanto è bello anche scoprire cose nuove. E l'inverno non intacca il fascino del parco del castello di Miramare. Anche qui molti stranieri, come questo studente indiano, ospite da un anno di una famiglia di Udine, grazie al programma Intercultura. Beautiful castle. E continuo l'afflusso di visitatori anche all'interno del castello. La seconda volta che visito un castello, questo qua è molto particolare, mi è piaciuto molto. Affascinante. Affascinante, molto affascinante. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una tradizione, quella del pomeriggio al cinema subito dopo Natale, interrotta però da 2 anni di restrizioni anti-Covid. Senza le mascherine, le sanificazioni, il controllo della temperatura e la riduzione dei posti in sala, ma anche senza il cinepanettone, che per qualcuno era un appuntamento irrinunciabile. Torna la tradizione del cinema a Natale, soprattutto a Santo Stefano, che a molti era mancato in questi anni. Eh sì, siamo andati 2 o 3 anni fa a vedere Frozen e poi da allora Frozen 2 poi non siamo più tornati con loro. È un appuntamento che le è mancato gli anni scorsi? Quando... Moltissimo, moltissimo. Sì, abbastanza, perché una cosa è la televisione, una cosa è il cinema. Era un periodo che speriamo di averlo alle spalle. Il pubblico ha ripreso quindi in questi mesi a mettersi in fila al botteghino e lo ha fatto anche nei giorni di festa. Per il settore il bilancio è positivo e sembra superato anche il timore che gli appassionati possano avere cambiato abitudini e scelto di guardare i film in streaming. Giorgio Maggiola, titolare di cinema. Sta andando molto bene, siamo arrivati, penso, dovevamo ancora chiudere le statistiche a fine festività, ma siamo sull'80, quasi 90% rispetto alla pre-pandemia. A guidare la classifica dei film più visti è l'ultimo lavoro di James Cameron. Avatar, il film di Aldo Giovanni Giacomo, il film di Spielberg, Le 8 montagne e i cartoni animati come Il gatto con gli stivali. Cosa va a vedere oggi? Quello di Spielberg. Il grande assente è invece il tradizionale cinepanettone. Manca perché c'era gente che veniva poco al cinema, ma non mancava mai il periodo natalizio perché c'era il cinepanettone. Quindi piaceva. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora ci spostiamo a Mereto di Tomba. Sofia è una giovane affetta da una rara patologia. Per lei era stata lanciata una raccolta a fondi perché potesse effettuare un intervento a Cipro. L'abbiamo incontrata 6 mesi dopo quell'operazione. L'avevamo incontrata a casa sua, a Mereto di Tomba, nell'aprile di quest'anno, quando alcune amiche avevano lanciato una raccolta fondi per permetterle di andare a Cipro per sottoporsi a un intervento per una malattia rara, non riconosciuta in Italia, la ciste di Tarlov. Lei è Sofia Pellegrini, una ragazza solare e piena di vita, e a più di 6 mesi dall'intervento siamo tornati a casa sua. Ci accoglie con un sorriso smagliante e già a prima vista capiamo che la sua vita è cambiata. Via le stampelle e una luce negli occhi che è già una risposta. La mia vita è cambiata decisamente tantissimo, nel senso che non ho più tutti quei dolori che avevo prima e tutta una serie di problemi è decisamente sparita, come per esempio tutti quei crampi allucinanti. Non prendo più 15-16 pastiglie al giorno, riesco a fare le mie cosine con calma, la strada è ancora lunga, però sento già un netto miglioramento e sono decisamente soddisfatta e grata a tutti quanti. Sono contenta e non vedo l'ora di riprendere la vita a pieno, e è bello. Quanto stai imparando a sentire il tuo corpo? Lo sto imparando a riconoscere un'altra volta, è tutto diverso, è tutto nuovo, anche semplicemente la sensazione al tatto lì del livello della cicatrice, o sedermi con le ossa nuove, è ancora strano sedermi e sentire l'osso sacro che mi sporge, è strano ed è bello allo stesso tempo. Sofia si commuove rivedendo le sue immagini prima dell'operazione o i suoi primi passi dopo l'intervento durato oltre 3 ore, ma la sua grande forza adesso la mette a servizio degli altri che soffrono della sua stessa malattia. Cerco di dare una mano come posso, perché è giusto che anche queste persone che sono in Italia e non sapevano di questa operazione prima di me abbiano la possibilità di accedere a questa operazione se possono, o perlomeno di sapere che c'è una speranza, c'è una via d'uscita, perché se io non l'avessi saputo non sarei qui col sorriso ora da raccontarvelo. Mereto di Tomba, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Ieri un esemplare di sciacallo dorato è stato investito e ucciso sulla tangenziale ovest di Udine tra il capoluogo e Tavagnacco. Questi animali sempre più presenti sul territorio tendono ad avvicinarsi ai centri abitati e anche alle città più popolate. Sentiamo Paolo Viezzi del servizio di vigilanza di Federcaccia Friuli Venezia Giulia. Non è normale che sia vicino ad un centro abitato così grande come quello di Udine, ma abbiamo già compreso che molti, anche grandi carnivori, ormai trovano le periferie delle città luoghi più sicuri dove è più facile trovare da mangiare. È un predatore, quindi ha un'influenza su determinate specie. Abbiamo potuto constatare, come mondo venatorio, che diversamente da quel che pensavano in molti, in realtà anche il capriolo è una preda dello sciacallo dorato. Probabilmente è la ragione per cui in alcune zone dove i numeri sono particolarmente importanti di questa specie si è in diminuzione quella del capriolo, come nel caso triestino, che è la prima, diciamo, frontiera territoriale da cui, ove è arrivato lo sciacallo dai paesi dell'est. E se una persona incontra mentre è in auto lo sciacallo dorato per strada, come fa a riconoscerlo rispetto ad un altro animale simile o a un cane? Ma diciamo che la gran parte delle persone non credo che siano in grado di fare questa distinzione, tant'è vero che colui che ha segnalato l'animale investito questa mattina sulla tangenziale tra Udine e Tavagnacco lo ha segnalato come ipotesi di cane. Non è un animale pericoloso per l'uomo? Assolutamente no, non lo è, lo potrebbe essere per gli animali domestici. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Associazione Internazionale dell'Operetta festeggia stasera al Teatro Rossetti di Trieste i suoi 30 anni di attività con il Galà dell'Operetta e del Musical, un traguardo celebrato con la FVG Orchestra, guidata per l'occasione dal direttore artistico dell'Associazione, Romolo Gessi. Tra gli artisti presenti ci sarà Andrea Binetti, regista e interprete delle produzioni dell'Associazione, insieme agli interpreti delle operette come Ilaria Zanetti, Maria Giovanna Michelini, Marzia Postogna, solo per fare alcuni nomi, e anche quelli del Musical come Stefania Seculini, Gianluca Sticotti, Elisa Columi, Francesca Marsi. Spicca anche il nome del giovane Christian Marusic, della minoranza italiana di Grisignana in Istria, che frequenta il Conservatorio Tartini e che è stato chiamato a rappresentare l'Italia all'Expo di Dubai nel dicembre dell'anno scorso. In programma brani di Strauss, Lear e Kalman e dell'italiano Costa, insieme a pezzi di Cole Porter, Lloyd Webber e John Kander. Nel corso del Galà Red Canzian des Poux consegnerà il premio nazionale Sandro Massimini, 19ª edizione, a Gianmarco Schiaretti. Il premio è un riconoscimento ai giovani cantanti che all'inizio della loro carriera mostrano grandi doti nel canto, nella recitazione, nella danza. Schiaretti, che vanta una presenza in produzioni internazionali, sarà a Rossetti in marzo nei panni del protagonista in Casanova. Inizio alle 20:30 questa sera al Politeama Rossetti di Trieste. Si concludono stasera le celebrazioni per il trentennale di Carigo con il concerto al Teatro Verdi di Gorizia. L'orchestra della Fondazione Lirica del Teatro Verdi di Trieste, diretta dal maestro Jacopo Brusa, proporrà un repertorio di arie d'opera e sinfonia da Mozart, Rossini, Puccini e altri grandi compositori. A cantare, insieme alla soprano Anna Maviglia, la mezzosoprano Marina Comparato e il tenore Andrea Scifaudo, ci sarà anche il basso Vyacheslav Strelkon, artista ucraino, cui è stata offerta la residenza artistica per dicembre. E stasera il duo Eusebius, formato da Alex Lavrencic al violino e da Sebastiano Gubian al pianoforte, si esibirà nel concerto di Natale I suoni della nostra terra, organizzato da Simularte, da Comunità Collinare del Friuli. Il concerto sarà un incontro tra l'anima tedesca di Brahms e quella slava di Dvořák. Appuntamento a Villa Manina, Rodeano Alto, in comune di Rive d'Arcano, alle 20:45. Un rimedio contro la noia dei bambini durante le vacanze natalizie è il laboratorio di costruzione burattini e marionette a Cividale del Friuli. Si inizia oggi al CIPS, Centro Internazionale Vittorio Podrecca Maria Signorelli, con l'iniziativa Dez Amore, le marionette canterine del CIPS. Appuntamento alle 10:30 per la costruzione di una marionetta gigante e alle 14:30 per una visita guidata alla scoperta di marionette e burattini del CIPS. Entrambe le attività saranno condotte dall'artista e burattinaio Michele Polo. E si conclude la rassegna Natale in città, cura di Orto Teatro, con spettacoli e racconti per bambini dai 3 anni in su nei quartieri di Pordenone. Questo pomeriggio nella sala Teresina De Gan della biblioteca, in piazzale 20 settembre, lo spettacolo Natale sotto l'albero con Federica Guerra e Lucia Roman per raccontare storie con orsi, alci e castori impegnati nei preparativi natalizi. Inizio alle 17. A San Vito al Tagliamento, la cooperativa sociale Il Piccolo Principe ha ideato le vacanze di Natale in fattoria, un campus dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni della scuola primaria. Nelle mattine di oggi e nei prossimi giorni i minori potranno frequentare il campus al Casale della Volpe sotto i Gelsi a San Vito. Sarà l'occasione, ha aggiunto Sara Castellana, animatrice della fattoria didattica, per giocare all'aria aperta, lontano da televisione e tablet. Ogni giorno si inizia alle 7:15 fino alle 13:00. E ora allo sport, partiamo dal basket. La pallacanestro Trieste chiude l'anno con un successo fondamentale. Trento battuta per 74-68 al termine di una gara combattuta e decisa negli ultimi giri di lancetta. Dopo la sconfitta di Varese, i biancorossi trovano il guizzo finale che riporta la fiducia nel gruppo e rinsalda la posizione di coach Legovic. Primo quarto con Trieste che parte forte, che va sul 6-0 a metà frazione, 10-6, con punti pesanti di Bartley e Davis. Trento ricuce il divario, ma i biancorossi non ci stanno e chiudono la frazione sul più 3. All'intervallo la squadra di casa è avanti di 5 punti, al termine del terzo quarto di un punto soltanto. Tutto si decide nell'ultima frazione, con Trieste sospinta dal pubblico. A metà tempo è 67-59, ma Flaccadori riporta gli ospiti in scia. Negli ultimi 2 minuti Ruzier costringe l'ex Grazulis al quinto fallo, si segna poco e sul meno 3 Trento sbaglia l'ultimo tiro. Rimbalzo biancorosso, fallo su Bartley che va a segnare i liberi della sicurezza. Ma sentiamo il commento di coach Legovic a fine gara. I ragazzi sono stati molto bravi, secondo me, ad eseguire quello che avevamo preparato dall'inizio alla fine. Penso che abbiamo dimostrato una grande consistenza difensiva, subendo meno di 20 punti per ben 3/4. Sapevamo quali fossero le caratteristiche di Trento e dove andare a unirli, anche con qualche accorgimento nuovo. Quindi complimenti ai ragazzi per l'abnegazione difensiva. Abbiamo avuto un momento di down, secondo me, nel terzo quarto, in cui siamo andati leggermente fuori partita anche a causa di un paio di conclusioni, penso 4 o 5 conclusioni da sotto praticamente sbagliate, ed è chiaro che quelle potevano essere un'ulteriore benzina per una squadra che in quel momento quantomeno era in controllo della partita. Un altro numero secondo me importante, che sta a testimoniare il lavoro che stiamo facendo, sono 10 palle perse. Non voglio dimenticarmi da dove siamo partiti, con una squadra che ne faceva quasi 20, ne avevamo 7 se non sbaglio alla fine del secondo tempo. Chiudere con 10 penso sia un grande risultato di una squadra che non è ancora, secondo me, ancora margini di miglioramento importanti, però stiamo lavorando in palestra con grande impegno, serietà e con giocatori e persone che vogliono raggiungere assolutamente il nostro obiettivo. E siamo al volley. È la CDA Talmassonsa a vincere il derby della 2 femminile di pallavolo davanti ai 1500 spettatori del Carnera. La ITAS Ceccarelli Martignacco battuta grazie alla maggiore continuità e alla lucidità negli snodi decisivi della gara. La squadra di Barbieri si impone nel primo parziale 25-21 dopo che l'ITAS aveva annullato 2 set point. Anche nel secondo set le ospiti prevalgono 25-19 dopo la buona partenza dell'ITAS e il lungo vantaggio interno. L'ITAS si aggiudica il terzo parziale 25-18 e nel quarto annulla la partenza forte delle ospiti portandosi su 14-11. CDA recupera e sorpassa poi altalena entusiasmante fino al 23-25 con i punti decisivi firmati da Taborelli e Blessing. Fanno 2 derby su 2 per coach Leonardo Barbieri. È stata una partita dai due volti, ha commentato. Per i primi 2 set abbiamo giocato una partita di altissimo livello. Nel terzo siamo andati un po' in confusione. Poi è stata la partita del cuore, con azioni e scambi infiniti, che riesce a portarsi a casa chi ha più determinazione. E oggi nel pomeriggio a Sappada la cerimonia di accensione del braciere della 16ª edizione Sport Invernali su Neve e Ghiaccio di EIOF 2023. E parteciperanno istituzioni locali e rappresentanti del movimento sportivo del territorio. A Sappada si svolgeranno tutte le gare dello sci di fondo con l'arrivo di centinaia di giovani atleti da 47 paesi. L'inizio della cerimonia oggi alle 17:30. A EIOF 2023 FVG sono attesi in tutto 2.300 partecipanti, di cui 1.300 atleti che gareggeranno nelle 109 competizioni sportive in calendario. E siamo alla rassegna stampa. Cominciamo con il piccolo edizione di Trieste, che apre con la carenza di medici di famiglia. Sono pochi, con 41 pazienti a testa, titolano. I sindacati protestano, l'emergenza è strutturale. In taglio alto nella prima pagina la fotonotizia è dedicata alla Porta Rossa, la serie televisiva di Rai 2 che andrà in onda da mercoledì 11 gennaio. Nell'immagine l'attore Lino Guanciale con il suo virgolettato: per me e Cagliostro, Trieste resta a casa. Cagliostro è appunto il nome del protagonista della serie. Si parla anche del ritrovamento di Fiorenzo Sinković, il nonno Paletta, scomparso giovedì e ricoverato in un ospedale di Monaco in stato di incoscienza. Accanto la storia di Salvatore Lamacchia, che dopo il fallimento della sua azienda edile e diversi lavoretti si è ritrovato a essere senza tetto. Ora sogna il riscatto. A fondo pagina la curiosità sulla fine che faranno le cune in banconota e la vittoria di Trieste nel basket contro Trento, di cui abbiamo parlato. In capocronaca, nelle pagine interne, il piano del comune per dotare la città di 11 bus elettrici entro il 2026. Sono stati investiti 6,3 milioni del PNRR con la regione. Famiglia energia bonus, cosa prevede la memoria? Il Messaggero Veneto di Udine apre sull'approdo al Senato della legge di bilancio. A centro pagina un ritratto del ricercatore friulano morto a Capoverde. In taglio alto chi lascia e chi è in corsa per il bis. Gli assessori si preparano al 2023. Di spalla frasi razziste dal paziente a Lignano. Il medico insultato ora è cittadino italiano. Sotto un ritratto di Tobia Decker, morto in un incidente d'auto a Mestre, il dolore del Friuli per il giovane Decker. Ancora sotto la foto dello sciacallo dorato, investito poco fuori Udine. In taglio basso la storia di Natale, chiama i carabinieri, sono solo anziano e loro cucinano per lui a Sedegliano. Covid influenza, ore per una visita, titola il Gazzettino, pronto soccorso presi d'assalto. Nella foto la festa per il secolo di vita di Blandina Candolo, la bimba non sopravviverà, avevano detto 100 anni fa i medici alla madre. Di spalla il bilancio, 3 persone intossicate in provincia di Udine durante le feste. Sotto montagna, 15 nuovi esperti, guide alpine, diplomati sul campo. In taglio basso poi il calcio in vista della ripresa del campionato di A e lo sciacallo investito a Udine. Anche nell'edizione di Gorizia il Piccolo apre sui medici di famiglia, nuovi tetti nell'Isontino, a Monfalcone si sale a 175 pazienti per ogni medico. Nella fotonotizia il ritorno della cantada a Vermegliano, a Ronchi dei Legionari, una delle tradizioni più amate della Bisiacaria, cui hanno partecipato più di 15.000 persone. Si parla anche della protesta del personale amministrativo degli uffici giudiziari di Gorizia, che nell'assemblea di ieri ha deciso di chiedere un incontro al governatore Federiga e poi di organizzare un sit-in davanti al Tribunale a metà gennaio. Lo sciopero non ancora. Spazio anche al dicembre goriziano, con i parcheggi del centro gratuiti fino a Capodanno, la pista di ghiaccio e i concerti. Mentre per la primavera dell'anno prossimo si pensa già al Festival Monfalcone Geografie, che proporrà 2 appuntamenti fissi su 2 temi che connotano il territorio, il Carso e l'amianto. Stessa apertura del dorso del Friuli per il Gazzettino di Pordenone sulla difficoltà dei reparti dell'emergenza negli ospedali. Nella fotonotizia il Piccolo Angelo fa 500 e salva il punto nascita di San Vito al Tagliamento. Di fianco truffa da 7.800.000 euro, processo bis al via a gennaio per il caso Venis, imputati il sedicente trader di Porto Gruaro Fabio Gaiato e alcuni collaboratori. Pordenone, i furbetti riempiono i cestini in centro di servizio, cestini di servizio per chi passa per strada e deve buttare via qualcosa. Strategia per liberarsi dei rifiuti, ampiamente utilizzata anche a Udine. A destra di spalla l'intervento del vescovo Pellegrini a Natale per salvare anima e corpo, e Piancavallo fa il pieno aspettando Capodanno. Sul Messaggero di Pordenone nella fotonotizia non suona la sveglia, il vescovo assente, poi l'applauso dei fedeli di Sacile che aspettavano l'arrivo di Monsignor Pizziolo da Vittorio Veneto. Sotto l'addio al gestore dello storico bar dell'area del mobile Zanette e il concorso dedicato al rispetto vinto dall'abito creato dai bambini dell'asilo. In basso sostanze inquinanti nel laghetto di San Giorgio, indagini dell'ARPA. La Biblioteca d'Arte Sergio Molesi del Museo Revoltella sarà aperta con il consueto orario da oggi a venerdì 30 dicembre dalle 9 a mezzogiorno e mezza e dalle 13 alle 16.30, mentre da lunedì 2 gennaio a mercoledì 4 gennaio sarà aperta con orario ridotto dalle 9 alle 13.30, mentre rimarrà chiusa giovedì 5 e venerdì 6 gennaio. A Monfalcone oggi cerimonia di inaugurazione del nuovo defibrillatore donato dalla famiglia Boato, appuntamento alle 12.30 alla parrocchia di San Giuseppe. Da oggi fino a domenica 8 gennaio rimarranno chiusi gli sportelli della Core come nelle sedi di Trieste, Udine e Pordenone a causa delle controversie tra utenti e gestori telefonici di per le controversie tra utenti e gestori telefonici di internet e pay TV. Nelle stesse giornate sarà sospeso anche il servizio del numero verde. Resteranno attivi le servizio Concilia Web, la piattaforma telematica dell'Agicom per la presentazione e gestione delle controversie e, in caso di urgenza, la casella di posta elettronica istituzionale. Oggi è giovedì, l'attività dello sportello unico statale per gli sloveni sarà sospesa per esigenze organizzative. Lo sportello sarà trasferito nel Palazzo del Governo di Piazza Unità, a stanza 44 al secondo piano, e riprenderà l'attività martedì 3 gennaio. L'apertura al pubblico nelle giornate di martedì e giovedì dalle 10 alle 12. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vue o Fevelindì parlerà della mostra Leggere il passato per immaginare il futuro, uomini e donne dell'acqua, visitabile fino all'8 gennaio con ingresso gratuito a Palazzo Mantica a Udine. A seguire alle 11.20 a Radar il bilancio scientifico di fine anno e poi l'almanacco scientifico ci porta nello spazio con la premiata astrofisica Claudia Marastone. I programmi regionali tornano poi alle 13.30. In regia Andrea Fontanot e Walter Vidonis. In redazione ha collaborato Manuel Bussani. Da Dario Ronzoni e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.